appuntamento elettronico su Radio Live Session. We'll be right back. Live Session saluta Massi D. Ciao! vi ricordiamo gli appuntamenti Revolution XL Club in Style domenica pomeriggio, domenica 12 aprile ore 15, special set Remember Lello B. Domenica 19 aprile in diretta mondiale su Radio Live Session il Bisonte Tatanka. Tutto questo è Revolution XL Club in Style on Radio Live Session. Fuck you back. fuck you back. Shut up back. House music. Shut up back. Is my play. Fuck you back. Fuck you back. House music is not dead. Fuck you boyfriend. Shut up back. House music is not dead. Shut up girl and fuck you back. Back, back, back. House music is not dead. Fuck you boyfriend. Shut up back. Back, back. Salutiamo Valterino SPK. Ciao. House music is not dead. Fuck you boyfriend. Fuck you back. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. House music is not dead. Fuck you boyfriend. Fuck you back. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. House music is not dead. Shut up girl and fuck you back. Fuck, fuck, house music is not dead. Shut up girl. Thank you.

siamo giunti alla fine del programma elettronico. DJ Vulpis saluta tutti quanti gli ascoltatori e gli dedica l'ultimo disco per quest'oggi. Ricordando lunedì 13 aprile dalle ore 20, The History of Rock, il programma Rock and Blues su Radio Live Session. Martedì 14 aprile dalle 21.30 alle 22.30, il programma Style Our Body con gli artisti Revolution.